anche se siamo riusciti a sonarti di dosso questa influenza, guarda, per carità, già non ne manca mai. Tu finisci, abbiamo passato delle settimane, porca la miseria, di mezzo pescati e cose varie, io sono in condizioni che sono, l'ho passata proprio terribile. È positivo, ma sai cos'è più che altro a me? Che tuttora mi sta dando un po' di fastidio, questa tosse che non riesco a scrollarmi di dosso. A me sono le balestre, a me le gambe, porca la miseria, per causa di diabete, c'ho le gambe e le balestre che vanno male. Ma la schinciola, anche quello, cioè, diabete, c'è cioè una brutta bestia, avanti, Giammarì. C'è in così su, tutto così, Giuseppe sta dicendo la tosse, ma io non avevo più, è già due giorni mi è ritornata, ogni tanto scatta, mi devo se competire, ma competire, croppatori, la donna, anche la pace mi farà, scatta, viene e passa, passa e viene, voi non se ne capisce un tubo. Eia Gio Maria, e io lo stesso, io sto prendendo sempre sciroppo, antibiotico, ma guarda, è una cosa che quando attacco è una cosa, sembra come quando uno ha la pertosse molte volte, quando mi vengono quei colpi da non poterne più. Io infatti avevo preso gli antibiotici, verrà calmata, tranquillo, e siccome io sono soggetto alle correnti, no, capito, sei su appena di corrente mi becca tutto, no? Sono diventato delicatissimo, mia moglie ha detto mi fa il nicio, adesso metterò il nicio per non prendere correnti. Guarda, oh Gio Maria, sembra così, ma molte volte sempre una scusa ci vuole. E io, la scusa è che non avevo niente, sono entrato in ufficio e c'erano quelle cavolo di cose che fanno caldo, quelle pompe di calore. Sono stato dentro una mezz'oretta, come sono uscito mi ha fregato. E fa sempre lei, anche a me, io ho il condizionatore qua e non lo accendo per quel motivo, perché mi fa male, mi fa venire la tosse quella roba, per carità, non se ne capisce più niente. Avanti Mario. Adesso non sei uscito, basso Mario, non è più il segnale che c'avevi prima, basta il radio, basta il segnale. Come mi trovi? Basso? Sì, basso adesso, come segnale e come radio. Con questo ti ricevo molto più bene. Caffa, e come sto andando, Mario? Bene, tutto a fondo scala, come l'altro, come è questo, uguale. Positivo, dai. Vuol dire che sono riuscito a fare un buon lavoro oggi, dai, mi sono impegnato e sono riuscito a piattarmela pian pianino. No, benissimo, stai tranquillo, il segnale esatto, più di 5 è impossibile adatti, perché se dico più di 5, se c'è gente in ascolto si mette a ridere, Giuseppe. Già lo so Mario, cavolo, no dai, l'importante è che sia tutto ok, dai, cavolo, ci mancherebbe altro. Ma tu hai controllato questi mancamenti ogni tanto, Mario, di coso, di radio, non è che magari c'hai qualche contattino nel microfono? No, sono io che sto volando, capito, perché ero già un paio di settimane senza accendere questi qua. Ah, positivo Mario, dai. Avanti Giammarì. Ok. Con molti modi sì, no Mario? No, con KM, HM. Ah, ok. Da, va bene, adesso va bene, dai. Il microfono normale ma benissimo. No, questo non è normale, no. No, è normale quello del showmaker. Ah, quello della DTG stai usando adesso? No, l'altro. altro. Ah, questo è il... ecco. Ho capito qual è allora. Lei stai usando, così è il microfono. Quello che c'ha due vecchie, ascolta. Ho capito, sì, ho capito, adesso va benissimo, dai Mario. Allora lasciamo tutto così. Chiudiamo, mettiamo un po' di colla e non tocchiamo più nulla, così. L'unica è mi, molte volte guarda quando si riesce a trovare le giuste regolazioni conviene fare veramente così, un goccetto d'attacco e il gioco è bello che è fatto. E questo Bibbia ti piace? Sì, sì, qua è molto, io la ho l'altoparlante qui in macchina per l'altoparlante esterno e ti dico che è molto gradevole. Io mi sei mandato con mia Maria a portarla a uno competente. E mi ha detto perché c'è il bimbi dal microfono e dalla radio. Se ne togliamo a noi uno, si fa abbassamento di radio. KK, anch'io a casa ce l'ho sia nel microfono che nella radio, però mi hanno detto che quando uso quello del microfono devo togliere quello della radio o viceversa. No, qui c'è la levetta, capito? C'è la levetta dietro e schiaccio e quando piace ne metto uno, non mi piace come adesso l'ho messo a due. No, è una bella tonalità, caspita. Allora mio marito, è per nulla, gli apparecchi miei quando vedono che non vado male, subito ho detto mica chiama mio Maria, allora si mettono a posto da solo. A che mi dici? Infatti con l'apparecchio ce l'ha all'interno dell'apparecchio del baracchino i picchi e il microfono, che quello del microfono si può togliere, però quello del baracchino non si può togliere e per cui si lascia tutte e due, mi piacciono, così che lascia tutto, così va benissimo Mario, tranquillo e pacifico, ok? Ok, Giuseppe, questo sto parlando adesso, il CM40 specie. KK, si vede, anzi si sente che è un signor apparecchio quello, la verità si dica, bella radio, bella modulazione. No, ero proprio già un paio di giorni che non riuscivo a farmi dare un po' controllo. Sera. Poi ho trovato a voi e così che grazie di tutto, quindi Dio Maria. Ok, mi devo assentare un po' Mario, che devo entrare a mio figlio qua di fronte. Per cui se ci siete entro dopo, dai, chiedo il curriculum momentaneo. Riprendi Giuseppe, eventualmente ci sentiamo alle prossime, ciao. KK, dai. Grazie per la chiacchierata e ci sentiamo alle prossime, tanto anch'io dopo come rientro sicuramente riprendo la casa e metto la macchina, sto entrando per mettere la macchina in garage, così passo anch'io in QRT momentaneo. Grazie di tutto, Gio Maria, Mario, statemi bene, dai, ci sentiamo presto. Ciao Tony, mi ha fatto piacere di sentirti dopo qualche settimana. Mi saluti intanto in Corea, mi saluti e buona domenica per domani se non ci sentiamo. Gio Maria, anche a te, al centro, mi saluti i nipotini che sei a casa, signora, alle prossime. Ok, ciao Mario. Sta attento Gio Maria. Chi è? Buonasera, un controllino, grazie Mario da questa parte. Top 22, sì. La radio com'è? È ribombante, bella forte. La voce è così. Buono, confermo quello che è Gio Maria. Buonasera. Buonasera anche a te, che ho cambiato l'antenna e che ho avuto un po' di problemi, stavo provando, adesso stavo andando, capito? Va bene, anche io faccio QRT, adesso mi prendo un buon brasiliano, ci sentiremo alle prossime. Buonasera a tutti. Andale, buona serata a tutti quanti, correti per me, ciao. Ok, ciao, sentiamo, va benissimo la radio, sì. Bella piena e abbastanza chiara, ciao.